Buonasera a tutti, come vedete oggi il mio spazio, che normalmente si chiama Spazio, prima non stavo discutendo con il mio ospite, il mio regista, si dovrebbe chiamare oggi Spazio un po', Rossi o Bianchi, perché questa sera noi dedicheremo l'intero spazio a un importante evento, che è il Vinitaly 2018. Questo perché? Perché naturalmente avevamo un inviato a Vinitaly. Radio Cerlano naturalmente ha avuto anche l'inviato a Vinitaly. Ve lo presento subito, è Candeloro Rasetti, che ci delizierà questa sera con il suo racconto, vero Candeloro? Parlo del mio mondo, grazie davvero a te Carlo. È la mia prima esperienza in radio e sono davvero felice, vi ringrazio per l'invito. Sì, lui è più televisivo, non so, sì. Perché ha lavorato per tanti anni in una televisione. La storia e la carriera di Tenotesco. Allora, visto che ha lavorato in televisione, ti volevo dire no, di incavolare così, di parlare con più vicino. Esatto, più vicino a micro. Come ti senti? Cuffia? Bene, No, allora, dicevo, Candeloro è stato per noi, è stato il nostro occhio e le nostre orecchie di Radio Cerlano, naturalmente portava anche il microfono, al Vinitaly 2018. Insomma, un po' voi tutti sapete, intanto salutiamo stasera che abbiamo un felicissimo parterre qui su Facebook. Sì, salutiamo tutti, Piera, che è il maestro Concezio, Federico, c'è pure un mio concorrente Piero, che adesso però, Piero l'altro giorno sono salito a Piane Roseto, caro Piero, quindi lui sa di cosa fa. E quindi niente, parleremo di, naturalmente il tutto sarà focalizzato sulle performance, chiamiamole così, sul nostro posizionamento quando vi conosco, abruzzese in quel di Verona, giusto Candeloro? Sì, giusto. Come l'hai visto intanto? Qual è stata la tua impressione di questo? Perché tu sei un frequentatore. Un abitué, sì, volevo fare questa premessa, infatti. Sono, credo, alla settima partecipazione di Vinitaly. Sì, perché lui produce non puoi resistere. Dicevo, la mia settima partecipazione credo al Vinitaly, di cui la stessa consecutiva l'ho fatto in duplice veste, sia per lavoro, alcune volte per lavoro, altre per passione, per divertimento. Diciamo che questa volta ci ho invitato entrambe le cose, grazie a voi per lavoro ma nello stesso tempo per divertimento. No, grazie a te, ripeto, per noi è stato veramente una bellissima esperienza, nel senso che la radio video di questo, per noi è importante avere in questi grossi avvenimenti qualcuno che in qualche modo si riporti impressioni, si dia qualche stare lì diverso, no? Naturalmente. Certo, se vuoi ti dico la mia prima di entrare nel merito dell'Abruzzo, no? Del padiglione numero 12, dove c'era l'Abruzzo, tra l'altro presente con tantissime cantine, 101 cantine, oltre chiaramente alle aziende produttrici di olio che erano presenti nel padiglione del Sol lì accanto. Ma dicevo, il Vinitaly che in questi anni è notato un bel cambiamento, dico bello perché comunque sia, diciamo che piano piano è cambiato il modo di interpretare, di intendere e di concepire il Vinitaly, perché è un evento fieristico importante, probabilmente più importante, non so se nel mondo, ma comunque molto importante. Che è successo? Che in pratica negli anni addietro, diciamo, era tra virgolette aperto a tutti, cioè era un prezzo d'ingresso davvero accessibile, era molto economico l'ingresso. Non voglio dire che, perché comunque c'era una grande organizzazione, come c'è ancora, però non voglio dire che sembrava una sagra. È abbastanza paradossale parlare di sagra considerando tutti gli interessi che ci sono dietro, gli investimenti. Poi pian piano diciamo che l'organizzazione ha capito, magari anche a costo di, ecco, alzare un pochino il costo d'ingresso, concedere meno passi. Il costo d'ingresso si è raddoppiato? Eravamo 80 euro ingresso giornaliero. Invece gli altri anni erano intorno ai 40-45, anche meno che io ricordi, però diciamo che ecco, da un paio d'anni siamo su quel target, però è stata una scelta. E secondo te questo è stato fatto per selezionare? Assolutamente sì, perché adesso coinvolge davvero la manifestazione, coinvolge davvero chi è portatore di interessi, coinvolge chi è, va al Vinitaly, va a Verona Fiere, dall'Italia e dall'estero, va lì veramente perché è interessato, perché insomma, per quello che per cui insomma è nato il Vinitaly. Quindi se vogliamo, forse chiaramente vista la situazione perde qualcosina dal punto di vista numerico dei visitatori, però guadagna nell'essenza, insomma, perché è stato creato il Vinitaly. Io do solo due cifre, stiamo parlando di un evento che ha raggruppato 4.389 aziende e 15.593 vini. Quindi insomma, diciamo che la manifestazione mondiale più grande. Qualcosa di immenso, Carlo, tra l'altro, perché non c'è soltanto la parte in fiera, ma c'è anche una parte esterna. Diciamo che questa è iniziata, credo sia iniziata proprio 2 anni fa in occasione della 50esima edizione, perché quest'anno è stata la 52esima, nell'edizione numero 50 c'è stato il Vinitaly City, quindi non solo l'evento fieristico a Verona Fiere, ma anche degustazioni ed eventi a Verona Centro, proprio nel cuore di Verona. Questa tendenza è un po' continuata anche negli anni a seguire, quindi anche l'anno scorso e anche quest'anno a Bardolino, anche comuni vicino a Verona, dove sono stati eventi anche esterni alla fiera. La regione Abruzzo, con i suoi vini, i suoi produttori, ha partecipato ad esempio ad eventi, tanti eventi in fiera nei 4 giorni, dalla domenica al mercoledì, ma anche qualche evento, diciamo, extra che è andato fuori dalle mura di una fiera, comunque immenso, insomma. Quindi dicevi comunque che, prima, così parlando, mi dicevi che comunque la regione Abruzzo ha preso un po' in mano la situazione, nel senso che io mi ricordo, io faccio 3 o 4... entrate a Vinitaly. Poi mi raccontare performance, mi raccontare il microfono in tempi, però la mia prima performance rimarrò nella storia. No, io ho fatto 3 o 4 per lavoro, perché poi non è che sono uno specialista di vino, per lavoro sono stato inviato. La prima volta sono stato quasi, non dico sbattuto, ma mandato giù, perché voglio dire, andare con quasi assegno al Vinitaly molto pericoloso. Sì, però poi il giornalista, tu sei meglio di me, che deve saper anche raccontare quelle cose che in cui non è proprio specializzato. Quindi dicevo, le mie prime impressioni quando andai le prime volte riguardo l'Abruzzo, io andavo come te per focalizzare l'attenzione sull'Abruzzo, era un po' che i produttori si muovevano, i risultati c'erano, perché poi i vini abruzzesi nel rapporto qualità-prezzo erano eccellenti, però si muoveva un po' in ordine sparso. Questa cosa non è successa, mi dicevi. No, è cambiato tanto da questo punto di vista, perché diciamo che ha lanciato un segnale forte, un forte messaggio all'Abruzzo, non solo per le tante aziende che hanno partecipato appunto, ma perché appunto c'è stata un'idea di unione, perché nel padiglione 12 di 1200 metri quadrati l'Abruzzo è stata presente, come dicevo, con 101 aziende, ma anche con una location, un layout davvero molto, molto belli e suggestivi. C'era l'enoteca regionale al centro con più di 350 etichette, sullo sfondo di questa, diciamo, della location dell'enoteca regionale c'era un'area multimediale dove mandavano costantemente le immagini del territorio, dei vari territori d'Abruzzo, perché come si dice, come è vero, dietro un bicchiere di vino, una bottiglia di vino, c'è un territorio. E allora questo è stato anche un bel messaggio, un bel segnale, che tra l'altro è stato molto apprezzato dai visitatori, anche stranieri, che ho visto nel padiglione dell'Abruzzo. Devo dire, si sono soffermati parecchio a guardare questo spettacolo, perché insomma l'Abruzzo lo conosciamo tutti, martoriato insomma dagli eventi calamitosi purtroppo, però comunque davvero dal mare alla montagna alla collina, davvero uno spettacolo incantevole. Rimanevano lì a guardare magari con un buon bicchiere di Montepulciano e quindi diciamo davvero una bella situazione. Poi dicevo, enoteca regionale, i due consorzi di tutela, consorzio di tutela Vino d'Abruzzo e Colline Teramane di OCG, e poi le varie cantine divise per territorio, cioè, insieme però nello stesso tempo con la loro identità per quanto riguarda appunto le quattro province dell'Abruzzo. Sì, stiamo parlando tra parentesi del segmento produttivo per quanto riguarda l'agricoltura più remunerativo per la regione, per l'intero Abruzzo. Cioè noi esportiamo vino e viviamo di vino, l'agricoltura abruzzese è in forte attivo soprattutto per la produzione di vino, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che tiene in più che a galla la nostra economia. Qualche numero, se vuoi: 32.000 ettari coltivati a vigneto, 3 milioni e mezzo di ettolitri di vino prodotti, e un export che viaggia su 160 milioni di euro. Addirittura nel 2017, nell'ultimo anno, è cresciuto del 13% l'export rispetto all'anno precedente. Esatto, stiamo quindi parlando di un segmento economico importantissimo per la nostra regione, non solo per quanto riguarda gli investimenti, cioè, i ricavi, ma anche per quanto riguarda gli investimenti e anche per quanto riguarda le ricadute sull'occupazione. Insomma, molti si stanno buttando un po' su questa produzione, e credo mandiamo prima magari un contributo, chi è sì, l'assessore alle politiche agricole, partiamo da lui, della regione Abruzzo, Vino Pepe, che ha lo sentiremo tra un attimo, ha rimarcato proprio l'importanza di fare squadra, quello che dice questo è un po' il messaggio chiave, il messaggio principale della partecipazione dell'Abruzzo a questa 52esima edizione. Va bene, sentiamo Pepe che ti ha detto. Con orgoglio accompagno la carovana del Vinitaly da 4 anni. Ieri abbiamo aperto l'edizione 2018 con una prima giornata assolutamente positiva circa la partecipazione di tanti operatori nel nostro padiglione numero 12, un padiglione dedicato all'Abruzzo completamente rinnovato grazie alla collaborazione con i consorzi di tutela. Voglio sottolineare questa capacità e questa volontà di tutti di collaborare tutti insieme per fare il meglio per l'Abruzzo tutto intero. Abbiamo partecipato quest'anno con 100 cantine vinicole e con 19 produttori di olio nel reparto dedicato al Sol. Un'edizione importante, particolare, determinante, poiché quest'anno festeggiamo i 50 anni della DOC Montepulciano d'Abruzzo, un risultato importante grazie al lavoro di tanti della comunità enologica regionale che in questi 50 anni hanno lavorato per il settore e per l'Abruzzo tutto intero. Voglio ricordare uno per tutti, Carmine Festa, un grande enologo che ha scritto pagine importanti dell'economia agricola regionale. 50 anni fa, insieme ad alcuni suoi collaboratori, intuì la strategica intuizione positiva e lungimirante circa la certificazione del prodotto e quindi istituì la Montepulciano d'Abruzzo DOC, una certificazione che ha portato fortuna alla nostra regione e adesso raccogliamo tanti risultati positivi, a cominciare dai risultati delle esportazioni. Abbiamo avuto nell'ultimo anno un più 13%, un risultato assolutamente positivo e lusinghiero, e noi attraverso questi risultati dobbiamo continuare ad investire, a lavorare, a fare ricerca, a fare innovazione, a fare certificazione del prodotto, a ridurre sempre di più il vino sputo nel nostro territorio e quindi imbottigliare sempre di più e certificare sempre di più. Questi sono elementi fondamentali e lo possiamo fare sia grazie al ricambio generazionale nell'ambito della nostra agricoltura, sia attraverso la certificazione dei nostri prodotti, ma anche e soprattutto questi risultati si ottengono grazie all'aggregazione di tanti operatori, di tanti portatori di interesse e soprattutto grazie allo spirito positivo che c'è all'interno del settore vino. Ecco, giustamente la sento orgogliosa nel parlare appunto di questo traguardo, che non deve far pensare a un traguardo come un punto d'arrivo ovviamente dei 50 anni della Rosso di Montepulciano, ma anzi deve essere uno stimolo chiaramente ad andare avanti in questa direzione. Questo entusiasmo che tra l'altro lo si legge e lo si vede anche nelle singole aziende, le cantine, come hanno onorato anche questa cifra tonda, perché ci sono tante situazioni, tanti eventi, anche in un calendario ricco appunto di eventi che propone l'Abruzzo in questa 52esima edizione. Quest'anno per festeggiare i 50 anni abbiamo sviluppato una serie di eventi. Questa sera ci sarà un evento particolare al Palazzo della Gran Guardia con tutti gli operatori della comunicazione, i migliori giornalisti del settore, rappresentanti istituzionali e poi loro, gli imprenditori di questo settore, i titolari delle cantine abruzzesi che in questi anni hanno lavorato tanto con impegno e con il sostegno forte da parte della regione e dei fondi comunitari. Bene, io ho intuito un po', ho letto un po' tra le parole dell'assessore regionale, abbiamo detto un po' le cose positive, però ho letto un po' anche quelli che sono i limiti di questo, della nostra regione, no? Quella di una maggiore certificazione del prodotto e quella di uno svecchiamento un po' del settore agricolo. Se tu pensi che l'età media degli agricoltori in Abruzzo è 54-55 anni, che è un po' pericoloso, nel senso che poi naturalmente l'anziano o l'azienda che non ha giovani non spinge verso non spinge verso l'innovazione, non spinge verso magari anche una novità nella comunicazione, come la stessa cosa di cui parlava un po' l'assessore. Eh sì, ma a tal proposito volevo raccontare, non il primo episodio, però poi ci arriveremo, il secondo. Il secondo episodio, sempre ero lì per lavoro naturalmente entrai nello stand della Toscana, che in quel periodo, stiamo parlando di una fine d'anni fa, aveva già lo stand, quindi regionale, con quindi questo tipo di promozione, quella regionale la faceva già, poi c'era un terzo Brunello lì, insomma tutti quei nomi, quei nomi importanti. Poi entrai dentro e quindi cominciai un po', io avevo appunto il pass della stampa, quindi loro effettivamente un esperto, non lo ero, però incapparono in qualcuno che aveva anche un po' studiato quella che era la storia, perché come voi sapete, non so se gli ascoltatori lo sanno questo, ma comunque i toscani sono venuti a saccheggiare per anni l'Abruzzo, tagliando il loro Montepulciano con il nostro Montepulciano, quindi hanno acquistato uva. Questa è una cosa storica, tra parentesi, vino e lana. Un banalissimo esempio, noi quando dico noi, quest'area qui, Atri e dintorni, aveva rapporti straordinari con Firenze, economici e commerciali, e in questo commercio c'entravano molto la lana, tanto che noi avevamo questa fiorente produzione di ovini, e poi anche il Montepulciano, il vino. E lì infatti dentro allo stand toscano c'è un piccolo parapiglia, perché poi c'entrò pure l'olio, loro parlavano di gradi di acidità, io ero carratissimo, ero stato a un convegno una settimana prima, insomma si è accesa un po' la disputa, perché io insomma sostenevo che in effetti loro erano bravissimi nel marketing, mentre noi avremmo dovuto ancora imparare molto. E poi per la produzione credo che i nostri prodotti fossero all'ottone, importantissimi, ripeto ancora, se si può dire, il rapporto qualità prezzo, perché i vini abruzzesi non sono così expensive come dicono all'estero, ma allo stesso tempo sono buonissimi. chissà se magari faremo in tempo a sentire tra i vari contributi. A questo proposito, Emilio Pepe, che insomma è uno dei, è forse il nonno, possiamo dire, del, sì, del, per quanto riguarda non, la produzione sono parenti, del vino, non sono parenti, non sono parenti, ma che tra l'altro diceva, anticipiamo perché magari non so se riusciremo poi a sentirlo anche per ragioni di palinsesto e di tempo, diceva appunto nel, nell'intervista che se la prendeva un po' con chi in realtà vende il Montepulciano a 3 euro a bottiglia, insomma, sì, perché non ci fa onore. Noi facciamo tanto da anni per comunque promuovere il vino, d'accordo, magari offrire anche a, a prezzi diciamo accessibili così, però insomma se vogliamo è la è due facce della medaglia, no? Cioè, chiaramente non devi svalutarlo perché anche, può essere anche un segnale di debolezza, no? Se il Montepulciano è sicuramente il, diciamo, l'ambasciatore dell'Abruzzo per quanto riguarda appunto nel mondo, allora è chiaro che, e diceva Pepe, insomma, io vendo una bottiglia a 25 euro, e sì, poi insomma anche cifre ben più alte per quanto riguarda diciamo le riserve, però insomma sì, anche è vero, questo è un passaggio comunque effettivamente importante, fa riflettere, vedere il Montepulciano venduto a 2 euro, 1,50 euro, insomma, la cosa mi dispiace, no? La cosa mi dispiace un po' perché da consumatore, sai, io, tutti noi abbiamo i nostri, sì, le nostre cantine, dove andiamo lì, magari compriamo, ho portato magari anche qualcuno a comprare del vino, quello che acquisava il giorno, il famoso vino scuso, che bisognerebbe, di cui bisognerebbe sempre ridurre la produzione, non credo che bisogna ridurre la produzione, ma aumentare l'imbottigliamento, che è la cosa diversa, perché nel momento in cui la metti in bottiglia il vino sale più di prezzo. Sì, un po', diciamo, non voglio dire proprio di nicchia, però comunque sia, sì, magari ecco, dal punto di vista della quantità, sacrificare qualcosina, l'ultima annata, ad esempio io, cioè, produco vino per passione, ma non sono un venditore, diciamo che io nella nostra cantina, nella nostra tenuta di famiglia, appunto, produciamo vino per oggi, mi occupo più della manovalanza il giorno della vendemmia è poco più, insomma, magari perché ci piace, comunque siamo legati alla tradizione anche per etichettare il vino a mano, così Lorena, visto Lorena che dice, visto l'argomento, nonostante la febbre, faccio un rosso fuori qua. Bravo, allora questo ti abbasserà la febbre. Non con Montepulciano da 3 euro a bottiglia, però mi raccomando, no, che se ci segue, no, se ci segue, no, a 3 euro a bottiglia, no, se ma ci io segue Emilio Pepe, poi la fine. Ma io ho scoperto un Montepulciano, un vino barricato che mi ha fatto scoprire il nostro regista qua a 3 euro, giusto? 3 euro al litro scuso. Buono, tanta ragione. Sicuro, vai, perché non sei un intenditore, quindi no, io non sono un intenditore, una cosa è certa, però non bevo vino, non riesco a bere vini scadenti perché mi fanno male veramente. Se il vino non mi fa male vuol dire che il vino è perché buono, vino, assolutamente. È buono. Intervengo un attimo per dire che sì, bene, sono le bottiglie importantissime in Abruzzo, però per la qualità tante volte la differenza tra scuso e vetro è sottile. In che senso? Nel senso che la qualità è sempre buona. Sì, è vero, allora. No, anche perché io adesso ritiro fuori un po'. Oltre a fare questo mestiere, per un periodo della mia vita ho fatto anche il certificatore di qualità, e quindi sono stato chiamato un paio di volte a fare certificazione di qualità delle cantine anche abbastanza famose qui intorno, e è vero un po', eh? Non lo sapevo, vedi, questo si sfuggiva. Nel momento in cui andai via, no, da decisi di andare via, di smettere con il giornalismo, poi arrivò un momento che potevo lavorare da qualche parte, mi offrirono questa opportunità e io che andai a fare il certificatore di qualità, l'ho fatto per un 2 o 3, e fui costretto quindi a quando fai il certificatore devi imparare, devi studiare anche tutti i processi produttivi, siccome dovevo certificare un paio di cantine, ho dovuto imparare un paio di tutti i processi produttivi all'interno di una cantina e certificarli. È un po' quello che diceva Carlo, è vero, nel senso che spesso finisce nel cosiddetto calderone dello scuso, finiscono le eccedenze che non sono da buttare via. Cioè, E quindi succede che tu magari a 3 euro al litro che ti porti la bottiglia, perché non sale un po' con lo scatolone, perché adesso anche di questo scatolone, no, da 5 litri, da 3 litri, sai, quelli che non svolta, quelli sono anche una svolta. E lì puoi trovare delle, ma le puoi, però credo, però dai, il cazzonato con le ginestre, no, no, sì, no, non è perché fino a quel punto no, dai, no, no, assolutamente, tant'è che io infatti ho deciso, io a Materno come molti andiamo lì con il bottiglione e poi ce lo bottigliamo a casa sicuramente, però no, questa cosa però io non lo so fino a che punto è un sì, è giusto quello che dice Pepe, nel senso che tu svaluti magari se vendi a 3 euro la bottiglia il tuo vino. Però è anche vero che grazie a questa politica anche di un approccio più economico il nostro vino si è fatto largo in mezzo a tanti giganti. Cioè, diciamo pure che il mercato italiano non è la stessa cosa del mercato estero, perché magari c'è chi, non solo perché ha più possibilità, però lo straniero magari non va da te, se la bottiglia di un ottimo vino comunque la paga volentieri anche parecchio, e in quel caso chiaramente dà anche più autorevolezza, rende forse anche più giustizia a questo. In Italia è un pochino più difficile questo discorso, questo va detto, il mercato interno è sempre un po' più appunto, problematico. Ma poi c'è, secondo me anche il gusto della scoperta, non so se capita a voi, ma a me capita sia per il vino che per l'olio, no? Sapendo che noi siamo produttori, che siamo, viviamo per fortuna in una regione che produce questi bellissimi, buonissimi prodotti, poi c'è anche il gusto di andare a scoprire e dire, ma guarda, quella cantina c'è delle cose ottime, quel frantoio fa delle cose ottime, e ti senti anche un po', come dire, parte di un di una storia anche importante, che altri non hanno, insomma, ti senti una cosa. Anche tu, no, produci vino, non sei uguale a quello che sta a Milano, che è costretto a prendere. No, no, tanto orgoglio, tanto orgoglio. Anche se lui dicevo faccio soprattutto manovalanza, però è una manovalanza di orgoglio. No, sicuramente. È davvero bello, fatto gli stessi. No, io volevo dire ai nostri ascoltatori, che sono parecchi questa sera, quindi credo che l'argomento interessi, siamo contenti. Se volete, insomma, fateci anche domande, fate domande anche a Candelore, che è stato, che ricorda il Vinitaly, se avete curiosità, se avete qualche, appunto, curiosità da soddisfare, noi siamo qui quanto c'è possibile nel rispondere. Interagite con noi, noi insomma saremo ben lieti di interagire con voi. Siamo qui anche per questo. No, tu sai benissimo che questa è una radio che porta il nome di Cerrano. Cerrano è anche un, soprattutto attualmente, un'area marina protetta, e il presidente dell'area marina protetta è anche un enologo. Tu lo hai incontrato su... Uno direbbe, ma come c'entra l'area marina protetta, un'area marina protetta, un discorso allargato al vinto? Come c'entra, Candelora? Allora, guarda, intanto c'entra perché poi avremo anche piacere sì. di sentirlo, quindi non anticipiamo troppo, perché immagino no, chiaramente no. da Radio Serrano chiaramente sì. potremmo sentirlo. No, ma io sì. No, c'entra perché ha intrapreso un percorso, e lui tra l'altro, data la sua esperienza, diciamo duplice, nel duplice vesti, cioè, no, sia come enologo di tante cantine italiane tra l'altro, e sia appunto come presidente dell'area marina protetta, nonché come sostenitore di Viva, che è appunto la certificazione sulla viticoltura sostenibile, ha diciamo tracciato questo percorso, legato proprio alla sostenibilità, e l'ha proposto non solo alle cantine, alle aziende, comunque alle imprese che stanno appunto nel territorio del Cerrano. E questa situazione è piaciuta, è stata apprezzata, tant'è che nel Vinitaly, proprio in occasione della giornata inaugurale, c'è stato questo riconoscimento per le cantine abruzzesi, che appunto le aziende abruzzesi che si spendono, si aprono al sostenibile. In questo senso, ecco perché l'area marina protetta, tramite appunto il suo presidente, ma non solo, ha avuto questo riconoscimento, è stata citata in questo senso. Tra l'altro un percorso iniziato, intrapreso, quello di mantenere l'intervista già un paio di mesi fa con un workshop proprio dedicato nel mese di febbraio, il 13 febbraio se non sbaglio, dedicato appunto a questo tema, che sta riscuotendo un certo successo anche per quanto riguarda il turismo sostenibile, operatori turistici che davvero hanno accolto con favore questo, ed è stato sicuramente interessante perché infatti ne abbiamo parlato proprio di questo con lui piuttosto che di vino, nonostante sia un enologo davvero insomma importante, perché come dicevo tante cantine non solo abruzzesi ma proprio italiane perché forse molti di noi non sanno che l'agricoltura non è sempre sostenibile, e quando diciamo sostenibile noi intendiamo che tutte le pratiche, tutti i passaggi della lavorazione, quindi non è solo il non uso del determinato disinfettante, io dico adesso così, ma è anche tutti i passaggi che ci sono dietro, e anche poi come smaltisci le tue i semplici rifiuti, ma questo vale sia nell'agricoltura e sia nel turismo. Quindi l'area marina protetta si è spesa ad esempio con la certificazione dei siti balneari appunto anch'essi sostenibili, che fanno della sostenibilità la loro linea guida, e quindi hanno agganciato queste due cose, quindi la produzione di vino, ma nell'idea dell'area marina c'è parte con il vino, ma poi ci si allargerà un po' tutti gli altri prodotti agricoli, cioè fare della sostenibilità il faro principale, perché si è capito ormai, questo mi ricordo anche durante un bellissimo workshop fatto con degli esperti che hanno messo in luce quelle che sono le nuove direttive del turismo, si è capito che chi va in giro, chi viaggia, quindi chi spende soldi, vuole essere parte di un bellissimo sogno, e soprattutto vuole sapere che tutto quello che sta spendendo, che sta acquistando, che si sta godendo viene prodotto nel rispetto della natura. In questo senso è davvero un bel indirizzo, un bel taglio che è stato dato, ecco perché c'è stato anche questo riconoscimento, ecco perché appunto le aziende... Sì, da parte del Ministero anche, credo, sì, il Ministero ha preso in mano questa stagione. E questo è anche un po' un motivo d'orgoglio. E invece adesso ci sentiamo. Allora, Alessandro Nicodemi, se volete, presidente del Consorzio di tutela delle colline teramane di OCG, lui è sempre presente ovviamente con le cantine teramane, appunto, e con lui abbiamo parlato anche un po' di questa evoluzione che c'è stata per quanto riguarda l'Abruzzo nel Green Italy, anche dal punto di vista della promozione dell'immagine, come dicevamo, per questo padiglione rinnovato con tante situazioni, c'è stato anche Nico Romito, lo chef stellato abruzzese, che ha dedicato due piatti al Montepulciano d'Abruzzo appunto in occasione di questo 50° anno della DOCG del Montepulciano, come ci sono stati poi altri eventi, magari poi ne parleremo, iniziative anche belle, interessanti, dicevo, non soltanto in fiera, anche fuori, ma legate appunto a questa ricorrenza del 50° anno della DOC del Montepulciano. Alessandro Nicodemi, allora sì. Vedo che c'è Presidente Leone Cantarini, ci sta guardando, e lo salutiamo, come certo. Salutiamo Carmine, Adamo, Angela che ci sta anche guardando, Rina, insomma un po' tutti quelli che si sono messi all'ascolto di queste schizzi impazziti, di queste schegge impazzite dedicate al vino. Con Alessandro Nicodemi, presidente del consorzio Colline Teramane di OCG, dentro al padiglione 12 dell'Abruzzo, alla 52esima edizione del Vinitaly. Beh, io partirei proprio da qui, da questa straordinaria location, perché rispetto al passato, tutti insieme, una soluzione molto bella, come layout, più ordinata, ma soprattutto anche un messaggio forte che viene fuori proprio da come è stata allestita questa location. Sì, proprio questo, un messaggio forte che abbiamo voluto dare. Quest'anno è di una grande regione enologica, il nostro Abruzzo, ma non più massificata fino a se stessa, ma si divide in territori, perché le particolarità di un territorio poi rendono grande l'unicità dello stesso. Io amo sempre ricordare che il Montepulciano, secondo me, è un bellissimo diamante, e come tutti i diamanti, come tutte le gemme, più viene sfaccettato, più si rende prezioso. Oggi noi esaltiamo il nostro territorio appunto sfaccettandolo, non dicendo solo che esiste un Monte Vulcano d'Abruzzo, ma esiste un Monte Vulcano d'Abruzzo proveniente da quattro province e quindi espressione di quattro territori. Quanto è stato importante fare squadra? Quanto è importante fare squadra? Il concetto è fondamentale, fare squadra è tutto, anche perché i brand, diciamo, aziendali, elevato casi particolari, nel mondo si perdono. I brand territoriali invece rappresentano un pilastro fondamentale proprio per le nostre esportazioni, proprio per quel più 13%. Per capirci meglio, di Brunello di Montalcino esistono 371 aziende che vendono tutti, magari di brand famosi noi ne conosceremo 4, 5, 6, ma tutte le altre vendono prima, ancora prima del loro brand aziendale, il loro brand territoriale, perché hanno saputo fare squadra, hanno saputo creare un territorio forte, ma parliamo del Brunello come ci può essere il Chianti, il Barolo, l'Amarone, cioè quei grandi territori dove ancora prima delle aziende viene fuori appunto la terra, e oggi è quello che noi stiamo cercando di fare, però non mastificando semplicemente l'Abruzzo, ripeto, ma esaltandone le sue peculiarità, cioè i suoi territori, sempre facendo squadra ovviamente. A proposito di Monte Pulciano, dall'avvento, diciamo, di questa certificazione della DOCG, diciamo che qualcosa è cambiato, un Monte Pulciano diverso, questo lo vogliamo dire? Allora, diciamo, rispetto a quello, diciamo, proprio tradizionale. Sì, sicuramente, diciamo, la DOCG ovviamente è un, esempio, è un'esaltazione già di una primizia, perché portare un disciplinare da 140 quintali come DOC a 95 come una DOCG, ovviamente stiamo concentrando tutti quegli elementi che hanno reso grande questo vino e questo vitigno. Tant'è che con notevole piacere possiamo tranquillamente anticipare che la vendemmia prossima ci sarà una nuova DOCG, che è Terra dei Vestini, nel Pescarese, e oltremodo stanno venendo su altre due DOCG per l'Aquilano e per il Tietino. Proprio perché, ripeto, esaltando un qualcosa che già di per sé è grande, come il nostro Monte Vulcano, si ottiene un risultato ancora migliore. Ecco, per quanto riguarda il futuro, le prospettive, dove si può e si deve migliorare per essere possibilmente ancora più competitivi nel mercato interno, che non è mai facile, e chiaramente anche il mercato internazionale. Sicuramente dobbiamo purtroppo lavorare e tanto proprio sulla comunicazione, perché il famoso quinto potere non ce lo inventiamo noi. Noi possiamo fare possiamo avere una splendida regione, possiamo fare dei grandissimi vini, ma se non lo comunichiamo, oltre che ovviamente, diciamo, al mercato nazionale, ma soprattutto al mercato internazionale, che ormai il mercato è globale, a quel punto tutti gli sforzi sono persi. Allora, buonasera intanto a quelli che si sono aggiunti adesso all'ascolto e nella visione di questo speciale che stiamo dedicando al Vinter. Sono le 21.14 e voi state ascoltando Radio Serrano Web. Radio Serrano Web, per quelli che non lo sanno, quelli che non sono in pochi, è una web radio nata così dall'intuizione, dalla passione di questi DJ, che poi è riuscita, grazie anche all'intuizione dell'area marina protetta, a agganciarsi a questa bellissima iniziativa, a questa bellissima realtà che è appunto questo parco marino che noi abbiamo, questi 7 km di costa che sono tutelati da una legge del Ministero. Quindi, siamo veramente, in qualche modo, io lo ripeto spesso, ma orgogliosi di rappresentare questo sito, che è importantissimo, e ve lo assicuro che è importantissimo sia per quanto riguarda l'immagine della nostra regione, sia per quanto riguarda anche il traino che fa per salvaguardare, per innovare, per portare delle buone pratiche dalle altre parti del mondo, lo scambio con le altre aree marine io ve lo posso assicurare, è continuo, lo scambio con gli esperti di tutto il mondo è continuo, il vicepresidente dell'area marina Fabiano Arecchi fa parte di una commissione internazionale, ma lo stesso presidente, ma lo stesso direttore, sono persone che lavorano sul territorio per dare questo tipo di, io non lo chiamerei di servizio, ma insomma è quasi una piccola missione, una vocazione. Una vocazione. E in questo ci siamo anche noi, Radio Cervano fece la proposta al comitato di gestione che ha aderito pienamente, noi quindi adesso siamo un po' il megafono dell'area marina protetta e quindi cerchiamo un po' di seguire, di dare notizie, ma il tutto lo condiamo naturalmente con un po' di musica, con della buona musica, con delle altre notizie magari di altro carattere sportivo, e questa cosa ci porta tanta soddisfazione, perché poi vediamo che il pubblico aumenta di giorno in giorno, abbiamo un pubblico anche variegato che ascolta da tutto il mondo, questa è una cosa incredibile, ma è una cosa che ci convince sempre di più della bontà dell'iniziativa, perché abbiamo capito ormai che la linea è quella, che il mezzo è quello della rete, il web viaggia in maniera potentissima, soprattutto senza barriere, quindi può raggiungere chiunque. Logicamente ci siamo dati una linea editoriale, la linea è quella della territorialità, cioè portare la voce di questo territorio al di fuori dei confini, quindi soprattutto scoprire anche cose che noi che siamo qui intorno non sappiamo, quindi abbiamo dato voce a scrittori, a poeti, a nuovi gruppi musicali, e stasera stiamo dando voce a un segmento importante della nostra economia, che è quella del vino, ed ecco che entra in gioco Candeloro Rasetti, che questa sera sì, con noi ospite. Io credo che io adesso ti posso fare una promessa in diretta, non sarà l'unica volta poi che ci darà una mano quindi insomma sarà il nostro orecchio lungo e la nostra voce anche al di fuori di altri eventi. Adesso lo coinvolgeremo, probabilmente il giornalista è uno che però se la cava molto di più è molto di più introdotto nelle televisioni, ha fatto televisione per tanto tempo, quindi è stato lui che a Ginitali ha un po' dato un sguardo per il nostro tempo. E quindi che cosa hai notato? Prima qualcosa l'abbiamo detto, poi sì, diceva anche la parte degli eventi. Sì, in pratica, allora, gli eventi legati ai 50 anni, questi primi 50 anni della Rocca del Monte Pulciano, cioè questo progetto che è nato 50 anni fa di certificazione di questo prodotto, del prodotto principe, insomma, per quanto riguarda la produzione di vitivinicola abruzzese, ci sono stati tanti eventi. C'è stata anche una bella iniziativa all'interno del padiglione di Codice Citra, che in pratica è un'azienda che abbraccia nove cantine del Chietino. Un'iniziativa bella, dicevo, perché nel padiglione Citra ha ospitato Elisabetta Rodai, che è un'artista fiorentina che in pratica ha realizzato un'opera artistica appunto in dipinto proprio con il Monte Pulciano. Quindi insomma anche un'iniziativa sicuramente, oltre che lodevole, apprezzabile, anche originale. Non solo un vino da bere, ma un vino da guardare. Veramente. Se c'è la Milano da bere, adesso c'è il Monte Pulciano da guardare. E poi tra l'altro questo poi verrà. Questo però credo non fosse. È già stato fatto. Questa cosa l'avevo già sentito. Oddio, può essere. Per quanto riguarda l'Abruzzo probabilmente la prima volta, sì, però sì, sì, qualcosina in questo senso, e poi insomma dicono che anche sostituendo il vino al colore, che poi invecchiando rende ancora meglio poi l'opera, come proprio di pari passo col vino, no? Il buon vino che invecchiando migliora, ecco, anche questo è un senso, migliora così. E poi ti dicevo, sempre prima, mentre andava la musica, mentre andava il contributo, ti dicevo che comunque il padiglione dell'Abruzzo è stato non solo visitato da tanti turisti anche stranieri, c'è stato anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, che nella giornata di lunedì, quindi il secondo giorno di fiera, è venuto proprio in Abruzzo, si è soffermato in particolare su quelle tantine, quelle aziende che hanno subito danni nel sisma. Quindi ha fatto sentire la vicinanza del governo in questo senso, poi ha brindato proprio per festeggiare i 50 anni della Coppa del Monte Pulciano con un ottimo Monte Pulciano e con un Forza Abruzzo, poi ha lasciato il padiglione. C'è stato il ultimo bicchiere di 20 anni. Probabilmente il bicchiere della staffa. Davvero, insomma, anche l'ha fatto in Abruzzo, l'ha fatto col Monte Pulciano, quindi insomma anche questo magari lo potremmo ricordare. E poi se vuoi dico anche velocemente che nella manifestazione, nella questa 52esima edizione di Cifre Tonde, per quanto riguarda l'Abruzzo e non solo, i 50 della Doppia del Monte Pulciano e i 30 delle donne del vino, anche questo insomma è un tema piuttosto interessante, no? Perché anche queste migliorano con la vecchiaia, eh? Le donne del vino. Ma parli delle donne o del vino delle donne? Il vino delle donne, sicuramente. E insomma, 30 anni, anche questa è una piena. Lorena, chi beve del vino? Chi beve vino, Lorena, campa 100 anni. No, non muore mai, vero? Quello era la birra 100 anni e chi beve vino non muore mai. Comunque se la passerò bene, sia sì, chi beve vino che chi beve birra. E quindi insomma dicevo pure questa è una bella situazione perché le donne del vino sono tante, hanno entusiasmo e hanno dato vita anche a parecchi incontri proprio per questo trentennale e anche le donne del vino in Abruzzo, tante produttrici, tante che si stanno avvicinando anche in quest'ultimo periodo e che hanno in particolare dato vita a quegli eventi che hanno caratterizzato la chiusura in pratica degli eventi della proposta dall'Abruzzo in questa 52esima edizione del Vino Italia, ovvero nella giornata di mercoledì, quella appunto di chiusura. Avevamo già detto il discorso dell'export, di quel dato importante del più 13%, lì c'è la stima che viene fatta a gennaio praticamente di ogni anno, gennaio 2017, cioè del 2018, quindi annata 2017 più 13 rispetto all'annata del 2016. E come abbiamo sentito, l'ha detto l'assessore Pepe, lo ha ripetuto Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di Tutela, la promozione, lo dicevamo anche noi, è molto importante. Non nella nostra intervista, ma l'avevo sentito parlare anche l'assessore delle politiche agricole della Regione Abruzzo, Dino Pepe, che diceva che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione negli ultimi anni 6 milioni di euro per promuovere appunto l'Abruzzo e i suoi prodotti, grazie anche ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale della OCM, quindi insomma anche i contributi che sono arrivati, però lo diceva anche Alessandro Nicodemi. Dove possiamo migliorare? Come possiamo migliorare? Assolutamente dal punto di vista della promozione. Quello è fondamentale perché puoi avere un ottimo vino, puoi avere un bellissimo territorio che fa tanto, perché l'abbiamo detto e fa davvero tanto, però chiaramente saperlo tra virgolette vendere è anche fondamentale. Infatti io credo che il connubio vino va davvero di pari passo. Vino e territorio, quindi bellezza del territorio sia fondamentale. Perché sempre in quegli eventi promossi dall'Area Marina Protetta sul turismo sostenibile in particolare, ricordiamo ad esempio che l'Area Marina Protetta si è stata promotrice di un'alta scuola di turismo sostenibile a cui possono partecipare, quindi prendere anche una certificazione operatori alberghieri, quindi tutti gli operatori che stanno all'interno del turismo e quindi insegnano a fare questo. La linea del piano strategico nazionale, tra parentesi, un piano strategico stilato dal Ministero del Turismo appunto, parla proprio di questo, parla di quello che chi arriva in Italia vuole vivere, dell'esperienza che vuole vivere, e l'esperienza è sempre collegata direttamente al valore della sostenibilità, quindi al valore della natura. Quindi qual è il miglior biglietto da visita per il vino abruzzese se non il suo territorio, e viceversa quale miglior biglietto da visita per un territorio come il vino che si produce il brutto, ma anche l'olio, ma anche il formaggio, tutto quello che naturalmente poi alla fine ci riporta indietro nel tempo e ci fa rivivere quel sogno di questo Abruzzo un po' wild. E infatti su questo c'è una mia... In questo senso ti dirò che io ho un po' un rammarico, devo fare la mia colpa, perché anche quelle situazioni, sempre tornando a vino e territorio, anche le stesse cantine aperte che vengono organizzate in Abruzzo, penso che sia abbastanza, che negli ultimi anni, no? Il discorso di andare a degustare il vino, sì, proprio dove viene prodotto, no? La strada del vino, sì. Le strade del vino e del cielo, purtroppo non sono, dico purtroppo non sono un grosso frequentatore. In questo senso però effettivamente anche quella è una bella soluzione, per quello che dicevamo, no? Il discorso del territorio, il discorso di vedere da dove arriva. È indubbio. Se tu bevi un bicchiere di vino e vedi da dove arriva questo vino, dove... da questi vitigni, da queste bellissime colline, insomma, davvero in Abruzzo sono appena incantevole. Ma questa cosa è indubbio. Io, ad esempio, proprio un incontro formativo di questo genere con un formatore che insegnava, uno dei massimi esperti appunto nel marketing turistico, stava parlando di questo sogno che bisogna regalare a chi viene in Abruzzo o chi va per viaggio in un altro paese, in un'altra regione, e lui diceva appunto: voi dovete in qualche modo costruire intorno al vostro territorio, essere bravo a costruire un sogno, cioè chi arriva deve sentirsi parte integrante di un sogno, di un qualcosa di unico, indimenticabile, che poi naturalmente racconterà quando tornerà a casa, avrà come un sogno che lascia il segno. Che lascia il segno, bravo. E io, ad esempio, ognuno di noi doveva fare un piccolo esempio, un piccolo lavoro, e io raccontai la storia degli arrosticini per far capire che noi non abbiamo bisogno di costruirli, insomma. Cioè, noi sappiamo benissimo che l'arrosticino è una delle cose che si chiama. Li abbiamo portati anche a Verona. Ecco, vedi, portati a Verona, consumati, se tu parli di... Non ti dico quanto è successo. Ormai è diventato un brand della nostra regione, sono conosciutissimi fuori dalla regione. Però, se tu spieghi a chi sta degustando in quel momento l'arrosticino di che cosa si tratta, perché tutti, io su questo ho fatto una piccola ricerca, no, l'arrosticino non era altro, secondo una ricerca che ho fatto io, una legge non scritta, secondo la quale, frutto di una legge non scritta, secondo la quale il pastore che accompagnava le greggi nel corso della transumanza aveva il diritto, se una pecora gli moriva durante la transumanza, a prendere la pelle che si metteva addosso e a consumare, a mangiare la carne. E naturalmente, non avendo frigoriferi o i pastori dovevano consumare la carne in giornata. E un'altra cosa interessante è che gli arrosticini sono di pecora, perché nel 99% dei casi, durante la transumanza, c'era una selezione naturale nel greggio, moriva la pecora più vecchia, non l'agnello, e quindi è logico che la carne era quella di pecora, che insomma è una carne un po' particolare. Ora, se tu questa cosa la racconti, a me è successo, l'ho raccontato a un paio di australiani e a un paio di inglesi mentre stavano consumando, è normale che loro si sentano parte integrante di un sogno, di un qualcosa, o comunque di un'esperienza unica che poi racconteranno. Sicuramente affascinante, sì. Affascinante, che se non te la racconta nessuno chiaramente non puoi nemmeno immaginare. Sì, ma allo stesso tempo, voglio dire, poi la curiosità è anche, insomma, nella persona, perché anche a me piacerebbe ogni volta che arrivo in un posto mangiare, sapere magari anche come viene preparata, da dove viene ricavata. Certamente, ma è normale che la cucina, la produzione è cultura, e dietro quella cosa c'è tutta una storia. Nel caso del vino, la lite che io feci all'interno dello storico, la tua seconda esperienza della Toscana, e può essere allo stesso modo capovolto e riportato al nostro paese. Quanti sanno che i fiorentini, i toscani venivano a prendere vino qui? E naturalmente la memoria poi si perde in pochissimo tempo, Tant'è vero che i toscani questa memoria l'avevano persa, era rinfrescata. No, dicevo, poi da qui naturalmente puoi partire per fare tutta una serie di elaborazioni culturali, allo stesso tempo di una serie di anche racconti che ti valorizzano il territorio. Cioè, il problema nostro abruzzese credo che si chiami inconsciamente Gabriele D'Annunzio, nel senso che per lungo tempo questa regione è stata descritta come una regione un po' così dimenticata, molto utilizzata troppo, ma poi su questo no, essere aggressivi, però questa cosa poi, questo essere un po' come dicevo prima wild, un po' selvaggi, adesso si sta ritornando utile. Ritroviamo a e certo, adesso ci sta ritornando utile, questa cosa per noi è importante, noi adesso questo ci dobbiamo vendere, questo nostro essere selvaggi, ma allo stesso tempo degustare in maniera genuina, degustare, guardare, vedere, capire che qui si sono svolte cose importanti per quanto riguarda lo sviluppo di un'antica civiltà come quella romana. E quindi questo ci dobbiamo vendere. Io prima, se sei d'accordo, prima di tornare a parlare di Vinicali, magari c'è anche il contributo che speriamo ci stia ancora seguendo il presidente Leone Cantarino, quindi tornare a parlare proprio di Verona e della fiera, l'ultima chiosa, l'ultimo passaggio sul discorso degli arrosticini, ma proprio per l'Abruzzo, l'abruzzesità e anche insomma la cultura che va oltre i confini regionali, ad esempio c'è un autista, restando a Verona, al Vinicali, c'è un autista di taxi che da ormai da anni si conduce da dove alloggiamo alla fiera, che in pratica è un ottimo stagionatore di arrosticini, un estimatore degli arrosticini, a tal punto da farli arrivare dalla Brucco con insomma vagonate di ghiaccio proprio per averli insomma come si deve, li fa arrivare dall'Abruzzo, si è procurato la canalina, diciamo così, proprio quella così, e mi ha fatto vedere anche delle foto dei figli che insomma vanno a preparare, a cucinare questi arrosticini con una passione, sembrano davvero abruzzesi, ma sono di Verona, ecco perché ti dico che poi. E nello stesso tempo lo sento dire, ma quelli che troviamo qui è davvero un'eresia definirli arrosticini, perché sono spiedini, non c'entrano nulla con gli arrosticini abruzzesi. E lo dice un veronese. Ma infatti quando dicevo che ormai l'arrosticino è un brand, è vero, cioè è ormai l'arrosticino è riconoscibile in tutto il mondo. Poi insomma io che sono un amante di arrosticino, avendo viaggiato parecchio, poi ho riconosciuto anche in altri paesi, ad esempio nei paesi dall'altra parte dell'Adriatico, ho riconosciuto anche le similitudini che poi ci sono tra paesi in cui hanno imperversato le pecore, quindi il fatto orale. È normale che trovi qualcosa di simile anche nella ex Jugoslavia, perché lì ovviamente c'erano tantissime pecore, quindi o magari qualcosa del genere trovi anche in Sardegna, non tanto, però le similitudini le trovi. Sarebbe bello anche, no, riagganciare tutto questo. Poi intorno a questo tu ti riesci a studiare, a vedere che cosa succede, che cosa è successo nel mondo veramente. E in questo noi siamo fortunatissimi, noi abruzzesi in questo siamo veramente unici. Se di fronte alla Torre di Serrano c'è l'antico porto degli Atri a Piceno, e se l'altro giorno a Ulisse Alberto Angela Alberto Angela parla di una cittadina sull'Adriatico che ha dato in cui sono nati i nonni dell'imperatore Adriano, e che probabilmente ha dato il nome al mare Adriatico. Cioè, sono cose che noi e altri a livello di marketing non è che ci si buttano così, ma che proprio si inventano. Noi non abbiamo bisogno di inventare assolutamente nulla. Assolutamente torno, scusa, io non servo. No, tanto bene, poi parliamo di Abruzzo, parliamo di insomma, ma motivo di vanto, perché la nostra missione di questa radio è proprio quella di portare oltre confini le nostre caratteristiche. Anch'io mangio tanti rossicini, non soltanto, infatti ringrazio il buon Carlo qui per l'inquadratura, perché insomma è abbastanza tagliato. No, io, secondo me Carlo di Travello soltanto No, secondo me insomma abbiamo scelto una buona, non ne trovi tanti di appreciati che non mi hanno detto. Io anche donne vedo molto si scatenano, poi magari sì, ma poi la rosicina è convidiata, lanciamo il sondaggio quanti rosicini riuscite a mangiare, vediamo un po' anche le donne, vediamo un po' se scrivono qualche quanti rosicini riuscite a mangiare con pane o senza pane, anche quello è no, quello però il pane c'è, e dai, quanti pane bicchieri di vino usate con la rosicina? Vino Vinitaly e rosicini e Leone Cantarini. Che ci dice adesso Leone Cantarini? Ce lo ascoltiamo in registrata. Qui nel padiglione 12 della Regione Abruzzo, la 52esima edizione del Vinito, abbiamo il piacere di avere con noi Leone Cantarini, presidente dell'area marina protetta Torre del Serrano, oltre che enologo al lavoro con tante cantine italiane. E allora, intanto spieghiamo, passiamo proprio dal motivo per cui è qui e anche con orgoglio l'area marina protetta, c'è un progetto ambizioso, importante, che è già partito, che riguarda la sostenibilità. Chi meglio di lei per illustrarci? Sicuramente la sostenibilità sarà uno dei criteri proprio di scelta dei comportamenti del consumatore del futuro. E chiaramente noi come area marina Torre del Serrano siamo molto, molto attenti su questo e abbiamo intrapreso questa strada di creare un distretto sostenibile Torre del Serrano, che comprende ovviamente i comuni, quindi Atri, Silvi, Pineto, e che questa sostenibilità sia per quanto riguarda l'agricoltura, quindi la viticoltura, per quanto riguarda la pesca sostenibile, per quanto riguarda la mobilità, e ovviamente il tutto in un sistema di turismo sostenibile, perché oltretutto i comuni aderiscono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Quindi in questo quadro generale abbiamo già fatto un incontro con i viticoltori dei comuni, quindi le cantine che sono presenti nel nostro territorio. Con loro vogliamo intraprendere questo percorso di certificazione IVA sulla viticoltura sostenibile, una certificazione che è stata creata dal Ministero dell'Ambiente in accordo col Ministero dell'Agricoltura, quindi ha una valenza ambientale molto importante, perché noi siamo comunque e sempre interessati a far sì che quello che arriva sul mare, quindi tutti i corpi idrici, tutti i canali di scolo, i torrenti ovviamente portano acqua la migliore possibile, e un'agricoltura sostenibile sicuramente non crea problemi alle acque che arrivano al mare. So che è stata una sua intuizione anche per l'esperienza personale che ha maturato e che anche con la stessa Viva che ha intrapreso, e che poi questa esperienza si è voluta tramandare adesso nell'area che rappresenta lei come presidente. Le volevo chiedere, so che c'è stato anche un workshop un paio di mesi fa, il 13 febbraio se non sbaglio, che andava già in questa direzione, al quale hanno partecipato in tanti, come diceva lei, anche il turismo, per gli operatori turistici, che sembra siano rimasti entusiasti, comunque abbiano preso con favore questa soluzione, appunto per un turismo sostenibile, e le stesse aziende mi sembra di capire che stiano partecipando anche con altrettanto entusiasmo, e quindi probabilmente perché credono in questo progetto. Sì, è ovvio che il ruolo dell'area marina è quello della tutela, ma senza una soluzione con buone pratiche la tutela diventa anche difficile farla. Abbiamo fatto questo incontro anche con gli operatori del turismo, perché l'idea è quella di coniugare la produzione sostenibile con una ristorazione di qualità, quindi così come con i pescatori abbiamo iniziato questo percorso per arrivare alla tracciabilità e la certificazione del pescato per poterlo dare alla ristorazione qualificata che valorizzi questi prodotti e quindi che faccia dei piatti dell'area marina, perché tutto questo aiuta anche a fare un certo tipo di turismo che sia sicuramente un turismo più di qualità e che quindi attragga, diciamo, faccia sì che la destinazione Torre del Serrano, quindi delle terre del Serrano, possa essere una destinazione che viene scelta anche per la sostenibilità, per la bellezza naturale, per il rispetto dell'ambiente. salutiamo i nuovi arrivati: Gabriela, Loretta, Fabrizio. Noi naturalmente non diciamo i cognomi, li diciamo, ma per una questione di privacy non li diciamo. Maria Cecilia, Gianluca, nessuno si chiama Candeloro, perché lui era facilmente, se si chiamasse Candeloro sarebbe facilmente inquadrabile. Si hanno scelto il nome, direi che restiamo su Fabrizio, Guido, insomma Gianluca è abbastanza male. E poi niente, però stavamo dicendo adesso che non vi annoiamo un po', forse vi abbiamo un po' inondato di parole, quindi adesso mandiamo un po' di musica, che dici Carlo? Andiamo? Andiamo. Let us take a night off. I had to go into work, and I had to go to bed. I had to go into work, and I had to go to bed. Got a woman in a love. Abbiamo scelto un brano blues per intervallare le nostre chiacchiere, che spero insomma vi coinvolgano in qualche modo. Io ripeto, per dovere di contratto, che state ascoltando Radio Terranova Web, prima di noi, insomma, alla fine abbiamo ascoltato l'intervista a Leone Cantarini, che oltre a essere il presidente dell'area Marina Protetta è anche un nato enologo. Poi abbiamo anche spiegato il perché di questo connubio area Marina Protetta con il vino, ma in particolare l'area Marina sta cercando di ampliare questa sorta di sostenibilità, questa sostenibilità in gran parte dell'agricoltura, quindi cercare anche di macchiare in senso buono, quindi non solo il vino ma anche altri prodotti che sono tipici del nostro territorio, non ultimo l'olio, il formaggio, insomma cose che altre regioni hanno saputo sfruttare meglio di noi, insomma noi un po' alla volta arriviamo anche. E io credo che però tutto questo parta da una consapevolezza popolare, cioè la sostenibilità è anche in qualche modo implica anche un po' di sacrificio, nel senso che bisogna capire che bisogna fare la raccolta differenziata, che bisogna utilizzare determinati modi di produzione, certo, delle regole, quindi dei protocolli ben precisi, quindi implica che tu sia, che non sia così, però poi indietro si torna. Se questa cultura, quindi della sostenibilità, non è accolta dalla maggior parte della gente che in questo territorio ci vive, lì le cose diventano un po' difficili. Però io penso che poi tornare indietro, insomma, a quel punto è importante, è percorrere questa strada e aprire questi orizzonti, come stavi dicendo, qualche sacrificio, però poi li ritrovi, una volta che prendi questa strada sicuramente però ti imbocchi la strada giusta, poi non so, capito, penso che sia bello. Ma tutti gli indicatori dicono che la strada è questa, da seguire. Sì. Il problema è che io sono circondato, faccio un esempio, no? Una delle sono arrivati qua degli osservatori della natura, dei turistici, perché anche l'area marina sta facendo un lavoro per quanto riguarda la costruzione di parchi turistici appunto sostenibili, e gli esperti che sono arrivati qua io li ho incontrati e la cosa che ci dicono è un'area marina bellissima, quasi unica, e anche sia per storia che per quindi per storia, tradizione, cioè, ci fanno però un piccolo appunto, non è tanto piccolo, ti dicono è fortemente antropizzato, quindi se quindi tu trovi su 7 chilometri di costa solo 4-5 stabilimenti balneari che aderiscono a un discorso di sostenibilità e tutti gli altri invece non lo fanno, allora magari quei 3 o 4, 5 tendono a diminuire o possono diminuire invece di diventare 5 o 6. Per fortuna questo non sta succedendo, sta entrando questa cultura della sostenibilità anche tra gli operatori, quindi non solo tra chi si fruisce ma anche tra chi fa turismo, e quindi questo si riallaccia a quello che dicevi, il discorso sia dei sacrifici sia di saperti adattare, insomma, a questa nuova linea, sì, ecco, quello è fondamentale, certo. Storicamente è successo in tutte le aree, ma in tutte le aree protette, magari si vorrà un po', in tutte le aree protette, in tutti i parchi nazionali, sai, quando c'è la delimitazione ma tu non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, poi alla fine quando hanno visto che invece è presentato, esatto, la presenza del parco porta gente, porta più economia, basta vedere anche nell'oasi naturalistica qui dei Calanzi, all'inizio c'era molta resistenza, poi invece quando hanno capito che il formaggio lo possono vendere di più, il miele viene venduto di più perché la gente si trova in quel luogo e lo reputa, quindi reputa quei prodotti di quel luogo così importanti, allora poi lì quando cominciano a vedere anche i soldi la gente comincia a cambiare idea, e questo è bisogna innescarla questa idea. A proposito quindi di promozione di marketing, noi abbiamo ascoltato anche Giuseppe Cavaliere, che è referente agronomo specializzato appunto in marketing agroalimentare ed è funzionario dell'ARSA, l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo agricolo della regione Abruzzo. Abbiamo parlato con lui appunto della partecipazione in Abruzzo, del marketing, e anche abbiamo parlato del cerasuolo, perché comunque anche il cerasuolo è chiaramente della stessa famiglia del Montepulciano, però un suo perché, insomma, anche questo è orgoglio d'Abruzzo, il cerasuolo, perché tra l'altro questo è stata anche un'ottima annata per il cerasuolo, per la produzione in Abruzzo in generale, perché comunque è stata un'annata calda, quindi magari c'è stato qualcosina in meno dal punto di vista della quantità, però a livello di qualità, soprattutto i rossi, sono degli ottimi rossi, quindi berremo del vino. Venite in Abruzzo a bere il nostro vino, a vedere il nostro vino. A proposito di promozione, facciamo anche noi. Vediamo che ci dice Giuseppe Cavaliere. Quest'anno siamo riusciti veramente a fare la sintesi di tutto quello che ci eravamo ripromesso negli anni passati, una regione coesa, tutte le province presenti, un'immagine unica, e questo sia un forte segnale verso l'esterno. Come diceva lei, tutti i dati sono estremamente positivi. L'Abruzzo ha segnato per esempio nel 2017 un più 13% di export a fronte di una dato nazionale del 6,5%, quindi abbiamo una marcia in più rispetto anche a tante altre regioni. Di passi ne abbiamo fatti tanti, il percorso da fare però è lungo e articolato, però la qualità dei nostri vini, in particolare del Monte Pulciano d'Abruzzo e del nostro territorio, credo siano gli elementi di forza di una regione che veramente può ancora esprimere tante cose belle. Ecco, tornando alla location, sì, tutti insieme, questo è importante, anche di più rispetto al passato, dove magari era un pochino più, se possiamo dirlo, un pochino più disordinata, più dislocata la situazione, ma poi soprattutto quest'anno una location che esalta anche il territorio, perché sappiamo quanto sia importante avere questo tipo di prodotto, soprattutto il Montepulciano, ma non solo, in questi territori. Assolutamente, e come dicevo prima abbiamo fatto uno sforzo, anche soprattutto i produttori, i consorzi di Udine, ha fatto uno sforzo veramente alla regione per mostrare soprattutto il nostro territorio, perché il binomio di un territorio è quello vincente, quindi noi dobbiamo imporci con questo binomio che senso di unità, ma anche senso di qualità e di eccellenza di un territorio unico e straordinario come quello abruzzese. 50 anni la cifra tonda del DOC per quanto riguarda il Montepulciano, è frutto comunque di un discorso intrapreso ormai tanto tempo fa, condiviso e portato avanti, anche questo sicuramente sta dando risultati. Sì, questo è un bellissimo traguardo, perché sono i primi 50 anni del Montepulciano Abruzzo, quindi ce ne saranno tanti e tanti altri davanti. È un momento anche di riflessione per cercare di capire l'Abruzzo in questi 50 anni che cosa ha fatto, intanto che molti eventi parleranno di della storia del Montepulciano Abruzzo, ma soprattutto anche con lo sguardo verso il futuro. Il futuro credo del Montepulciano Abruzzo sia tra i più rosi, tra i migliori, perché è un vino di qualità straordinaria, legato fortemente al nostro territorio, sul quale non solo gli enti istituzionali, ma soprattutto i produttori stanno investendo tantissimo. A fianco al Montepulciano, come accennava lei, ci sono tanti altri vini oggi di estrema importanza, dal pecorino, ma io ricordo neanche il Trebbiano d'Abruzzo, che è un vino a mio avviso straordinario. Quindi abbiamo un patrimonio e la possibilità di offrire al consumatore un'ampia scelta di prodotti che qualifica il nostro territorio e la nostra azienda. Anche lo stesso cerasuolo, che ha vissuto anche un'annata importante, no? Assolutamente, il cerasuolo è uno di vini forse tra i più caratteristici del nostro territorio, non solo abruzzese ma dell'Italia. È stato avviato anche un percorso di qualificazione di questo prodotto insieme a tanti altri territori, e credo che nel giro di un anno o due si parlerà anche con molta sensibilità e molta attenzione anche di questo prodotto, che sta ottenendo un successo straordinario. Gonna do what you're about, fooling around till I got stuck on you.